la TV che produce la partita in Cina di Suning per promuovere l'evento ha mostrato un'immagine del Duomo con Messi. È più facile spostare il Duomo che portare Messi all'Inter. Ecco. Okay. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Si gira il Toro, prova a puntare, sfrutta il movimento di Lukaku, va alla conclusione, Lautaro Martinez, golasso di Martinez. Merito a noi che abbiamo fatto una buonissima partita, non era semplice perché comunque al di là di tutto giocavi dopo che l'Atalanta aveva vinto a Parma. Stare davanti in questo caso per il secondo posto, anche se come ho detto comunque alla fine qualcun altro ha vinto lo scudetto quest'anno, però abituarci a sentire la pressione di chi sta dietro e provare a difendere qualcosa è già un qualcosa di importante. Tante cose possono essere condizionate, no? Dal fatto che io creo delle aspettative importanti e magari qualcuno può pensare che come arrivo tocco e vinciamo. È successo in passato alcune volte e chiaramente capisco anche che attaccare me comunque porta pubblicità e porta, non attacchi l'ultimo della banda, ci mette tutta la passione. Poi posso commettere tantissimi errori, però c'ho sempre grande passione e cerco sempre di essere un valore aggiunto, di essere un acceleratore nelle situazioni che mi chiamano. Dunque, una volta appurato che Antonio Conte non è né Remeda né Gesù, l'ha detto lui, d'altra parte Pietro Lacorte, storico regista della Zanzara, in prestito con diritto di riscatto a tutti i convocati, Claudia Schiattore, tutti i convocati estivo fino alle 15.30, Radio Tweet in sardo da Pierluigi Pardo. Beh, allora, innanzitutto Pietro vale come Messi, quindi adesso vediamo se fare un'offerta, se ce lo possiamo permettere per strapparlo alla Zanzara. No, al di là di tutto io credo che questo... Sono piacevolmente colpito da questo finale di campionato, al di là di tutte le sfighe, ovviamente, il dolore per il fatto che non c'è il pubblico. Però insomma, Inter-Napoli di ieri, Atalanta-Inter, sono tutte forme, secondo me, perfette. Cioè, secondo me, il modo perfetto per preparare quello che verrà, che hai poi ragione. Sono le coppe europee. Ne parleremo lungamente. L'intensità di queste partite, anche l'intensità delle motivazioni, anche questa sfida per il secondo posto che si consumerà sabato sera, secondo me, è veramente l'ideale. Poi se questo basterà per fare delle imprese in Europa lo scopriremo fra un mese. Fai bene a sottolineare questo aspetto, perché secondo me è il caso di dire bravi a tutti i protagonisti del gioco per come hanno affrontato, stanno affrontando, grande fatica, però un grande prodotto, dignità, consapevolezza, questo momento storico stranissimo. Mister Guidolin, buongiorno. Ciao Francesco. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Pier, ciao a tutti gli ospiti. Sto bene, grazie. Dove sei? Perché non sei qui in Sardegna? Perché hai portato qui Marcolin, per quello. Sì, no, lo so. Marcolin, Balsaretti, diretto, siamo tutti già scambiati. Che bravi. Salutali sì. Tutti e un bacio a tutti voi. Francesco, ieri abbiamo parlato a lungo con Cassani di Amerigo Sarri, anni 90, ciclista ancora in attività. Quindi lo conosci? Papà di... No. Non lo conosci? Non avete mai sgambato insieme? Prima di parlare di calcio, come la vedi la Sanremo senza Liguria dell'8 agosto? Ma sì, ho letto, sarà speciale, come tutto il calendario è speciale visto che si riparte adesso, però io ti dico solo che non vedo l'ora che si riparta perché ho voglia di vedere ciclismo, ho voglia delle grandi classiche, ho voglia di tour, di Giro d'Italia, quindi tanta curiosità per come sono state messe in calendario le gare, no? Figurati, il Giro d'Italia parte il 3 ottobre e finisce a fine ottobre, sì, in montagna. Cioè, quindi ci sono tante incognite, tante cose devi da andare col piumino. In compenso c'è il campionato del mondo delle foglie morte, cioè il Giro di Lombardia a fine agosto, sì. Ne parlavamo, ecco. ieri con Cassani. No, senti, ti unisci a quanto dicevamo io per Luigi, cioè vale la pena sottolineare il grande grande professionalità con cui le squadre stanno portando in porto comunque una stagione difficile, mentre altre hanno rinunciato, è chiaro, alla Francia, ma al Belgio, l'Olanda e così via. Vale la pena sottolineare degli bravi, no? Sì, sicuramente bravi a tutti, bravi a tutte le squadre, a tutti gli staff, a tutti gli allenatori e soprattutto ai calciatori, perché non è certo facile giocare ogni tre giorni con queste temperature, vivere questa esperienza, poi credo non sia stato facile per nessuno. Un bravo particolare alle prime quattro della classifica, che sono state bravissime, quattro, perché tre si giocano ancora la possibilità di arrivare seconda, questo è importante. La Juve era pronosticata e ha confermato il pronostico. Direi che un plauso a queste quattro squadre, che l'Atalanta è impressionante, ma la Lazio molto bene e anche l'Inter secondo me bene. Per il primo anno di Conte. Quindi un applauso a tutti, in particolare alle prime quattro, che ci regalano un finale di campionato, almeno tre di queste, veramente palpitante. Sì. È una sfida anche questa per il secondo posto, la lotta per evitare il quarto posto. Sappiamo che c'è un'ipotesi praticamente impossibile, no? che la quarta possa essere esclusa dalla Champions. Ci vorrebbe la vittoria del Napoli in Champions e la vittoria della Roma in Europa League, insomma sono due ipotesi. Già ognuna di queste due è difficile, poi la combinazione di queste due sarebbe clamorosa, sarebbe tra l'altro un trionfo per il calcio italiano, perché vorrebbe dire vincere tutte e due le coppe, ma insomma è molto complicato. Però secondo me il livello di competitività l'ha dimostrato Inter-Napoli di ieri, secondo me lo dimostrerà sabato sera Atalanta-Inter, è importante perché appunto ci dà la possibilità, Napoli-Lazio che è una grande partita in arrivo, dà la possibilità secondo me a tutte le squadre che sono impegnate nelle coppe di avere ancora questo livello agonistico importante. Io credo che questo, rispetto alla Spagna, rispetto alla Germania dove hanno finito da tempo, rispetto alla Francia dove non hanno proprio ricominciato, potrebbe è un augurio forse più che una certezza, però ma io, guarda, io era una delle cose, Pier, era una delle cose che mi ero segnato di chiedere a Francesco Guidolin: meglio arrivarci dopo una sosta più o meno lunga come Germania e Spagna, Germania addirittura da un sacco di tempo sono fermi, oppure continuando a giocare come le nostre? No, direi che è meglio come le nostre, insomma, come dice Pier, cioè come le nostre, impegnate fino alla fine, allo spasimo, proprio fin sulla linea del traguardo. Senz'altro meglio così, visto che si doveva giocare per forza queste 10-12 partite per finire i vari campionati, è meglio arrivare proprio quasi un po' stressati, se vogliamo, però c'è un attimo di tempo per rifiatare e poi ributtarsi sulle competizioni europee. Cioè meglio un po' di tensione agonistica piuttosto che un po' di recupero fisico. Secondo me sì, a questo punto sì. Poi alla fine è una tensione agonistica. A me, guarda, io sono un ottimista di mio, lo sai, però secondo me è proprio la combinazione ideale, perché è una condizione agonisticamente ancora importante, ci sono ancora degli obiettivi da conquistare, però non è nemmeno clamorosamente stressante, nel senso che poi arrivare secondi o arrivare terzi cambia relativamente poco, tanto per fare l'esempio di Atalanta Inter o della Lazio. Ma secondo me invece, cioè, tu quindi sposi la teoria di Conte, secondo me arrivare secondo è un risultato sportivo importante. Assolutamente, ci mancherebbe altro. Noi amiamo lo sport olimpico, dove c'è una differenza tra l'oro e l'argento, ma c'è anche una differenza tra l'argento e il bronzo, e dove i piazzamenti sono importanti. I piazzamenti nel nostro calcio, soprattutto in questi anni di dittatura della Juve, vanno sottolineati, perché arrivare secondi è comunque un risultato, no? Primi dopo la Juve, in questi anni di dittatura della Juve, rappresenta qualcosa. No, però voglio dirti che secondo me è un buon mix, perché c'è un obiettivo, ma non è un obiettivo che ti uccide dentro in termini proprio di dispendio nervoso. Quindi è uno stimolo moderato, quindi secondo me è perfetto per allenarsi, perché ti tiene sicuramente più vivo rispetto a un amichevole, ma non è neanche una cosa che rischia di farti arrivare scoppiato poi l'appuntamento con le coppe. Lo paghi in energia fisica, ma lo recuperi in tutte queste cose che forse sono anche più importanti. E per questo volevo rifare con Guidolin il discorso che abbiamo fatto gli altri giorni sul Lione, dato che è un grande lettore di queste problematiche. Io dico che per le squadre francesi, Lione ma anche Paris Saint-Germain, 5 mesi di inattività agonistica sono una cosa che non può non lasciare perplessi. Poi avranno tempo per prepararsi, saranno più freschi, certamente arriveranno pronti, però 5 mesi per un giocatore professionista, Francesco, a me sembra un'enormità. No, cioè per per quanto possano essere ben allenati, ben preparati, abbiano studiato tutto, è complicatissimo giocare una partita decisiva dopo 5 mesi, per quanti amichevoli tu possa fare. Appunto. Guarda all'inizio stagione nostro, quando le squadre sono in rodaggio e fanno le famose amichevoli per cercare di arrivare in partita, ma ci vogliono 6 o 7 partite di campionato per trovare la gamba giusta, per trovare i ritmi giusti. Quindi da questo punto di vista le squadre francesi sono sicuramente penalizzate, che poi possono vincere, soprattutto in Paris, anche se per me quella col Paris e con l'Atalanta è una partita apertissima, perché magari hanno dei campioni, perché magari hanno sicuramente una cosa importante, questo ci sta, ma è complicato quello, è penalizzata le squadre francesi sono da questo punto di vista penalizzate. Certo, un'ultima cosa per quanto mi riguarda, invece stasera Pierluigi racconterà la Juventus a Cagliari, titolo conquistato, festeggiamenti fatti eccetera eccetera, alcuni innesti anche di ragazzi molto giovani, però in prospettiva Coppa, mister, è una squadra in bilico tra passato e futuro, no? Ci sono giocatori che già sanno che andranno via, addirittura come Pjanic sono già via. È un po' una squadra all'ultimo ballo, questo può influire in positivo o in negativo? Ma io penso che possa influire solo in positivo, nel senso che la posta in palio è talmente alta e talmente importante, talmente ci tengono, che queste cose non lasciano sicuramente assolutamente nessuno strascico, e quindi io mi aspetto una Juve concentratissima in Coppa. Capisco il fatto che abbiano in qualche caso in campionato, in certe occasioni, mollato un po', perché una squadra che vince per 8 volte consecutive è anche stanca di vincere, cioè fra virgolette, ma in Coppa non può succedere, nella Champions non può succedere, ritroveremo tutti al top e il futuro sarà dopo domani o dopo la gara di Coppa, non adesso, non prima, non si farà sentire, non influirà. Un grande ottimismo, grazie Francesco. Ciao, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Sei d'accordo Pierluigi? Sono d'accordo. Io penso che non inciderà il fatto di essere una squadra in gran parte, che l'anno prossimo sarà in gran parte diversa. Ma sai, questo è veramente un ballo finale, poi in un anno stranissimo, una stagione dove, per questo secondo me è molto importante non staccare, e da questo punto di vista, ripeto, secondo me noi italiani abbiamo un piccolo vantaggio, me lo auguro. Perché arriviamo dritti, con 5-6 giorni tra l'ultima di campionato e la partita di Europa League, di Champions League, di qualificazione, quindi secondo me è un barrage, è un finale di stagione, è uno spareggio, è un'appendice importantissima della stagione, non penso a questo punto con il ritmo tra l'altro di partito ogni 3 giorni che hanno tenuto questi ragazzi per un mese che sia un particolare problema. Penso che sia semmai più pesante il fatto che ad oggi, e stasera sono curioso di vedere per quello che vale il test contro il Cagliari, la Juve non abbia ancora trovato una compiutezza tecnica come quella che si sperava, almeno che i tifosi della Juve speravano che si potesse trovare. È sempre una squadra ancora capace di colpi estemporanei, con delle grandissime individualità, con degli sprazzi di sarrismo intesi proprio come ricerca del bel gioco, che però non sempre si concretizza, e con qualche amnesia di troppo. Questa è la Juve, quelle soprattutto, cioè, soprattutto. E ciò nonostante il campione d'Italia. No, certo, però quelle amnesie lì, soprattutto in partita secca, in Coppa, e a maggior ragione in partita secca, possono pesare molto di più rispetto a quanto succede in campionato. Continuiamo a leggere in controluce queste ultime uscite. Antonio Giordano, buongiorno. Buongiorno, ciao, ragazzi. Ciao Antonio. Mi sento in grande forma. Siamo in grandissima, siamo rodati e pronti alle coppe, non smettiamo mai. Infanzia, aggiungiamo. Ma si vede che avete fatto la preparazione lunga. Abbiamo fatto la preparazione lunga, abbiamo addirittura allungato di mezz'ora il programma. Vedi tu, siamo pronti per alzare la Champions. Senti, come sta Napoli, visto ieri sera San Siro? Secondo me malino. Malino? Perché è un difetto produrre tanto, anche un calcio di buona fattura, e non segnare o avere delle grandi difficoltà a farlo, ed è un clamoroso difetto concedere sistematicamente qualcosa agli avversari. Napoli, da quando si è ripreso dopo il lockdown, è riuscito a non prendere gol dalla Juventus nella finale di Coppa Italia, dal Verona nella prima di campionato e dal Sassuolo. Sì. Però c'è un paradosso, perché col Sassuolo facciamo finta di calcolarlo solo statisticamente, ma ci sono 4 gol cancellati per una questione di centimetri. Chiunque può dire che sono stati bravi i difensori a uscire. Secondo me, insomma, il destino ci ha giocato e stavolta gli dèi hanno deciso di dare una mano. E allora vanno analizzate queste cose. Poi è una squadra che però è in salute, ha una buona condizione, una buona gamba, una serie di elementi che secondo me stanno crescendo, ma deve necessariamente ritrovare l'anima, come direbbe Gattuso. No, come ha detto, anzi te lo, sì, faccio, lo facciamo sentire a tutti cosa ha detto Gattuso a questo proposito, questa è la sua lettura. Partita completamente diversa, con squadre completamente diverse, l'Inter è squadra fisica, tecnicamente ma anche fisica, Barcellona sicuramente è una squadra che palleggia molto molto bene, il fatto di non fare i gol e di subire sempre tutto quello che creano gli avversari, perché noi subiamo, anche oggi abbiamo subito poco, però abbiamo preso 2 gol e penso che in questo momento bisogna andare a ricerca un po' di anime in più, perché penso che l'abbiamo persa in questo periodo. Non so se si tratta di ritrovare l'anima, Pier. Io penso che il Napoli, più delle altre, più della Juventus, che ha vinto lo scudetto solo 2 giorni fa, più dell'Inter stessa, più dell'Atalanta, stia preparando da lungo tempo la partita col Barcellona. Non so se è questione di anima o di calcolo. Sì, ma questa però è una dichiarazione che fa il paio con quella post-Napoli-Sassuolo sulle tentazioni di Napoli, sulla bellezza di Napoli, perché poi di bellezza stiamo parlando, soprattutto ovviamente a luglio, sulle isole, barche, eccetera. Poi parla uno che ha preso un gommone la notte, che fortunatamente per tornare a profila, quindi veramente potrei fare l'ambassador di questa bellezza e di quanto sia meraviglioso. È chiaro che se Gattuso dice questo è perché evidentemente si rende conto che qualcosa dal punto di vista della tensione agonistica non funziona come poteva funzionare un mese fa e vuole che invece il livello sia altissimo. E quando parliamo di questo però ricordiamolo, perché sennò uno può pensare quell'equivoco di fondo, no? Che il calciatore non si impegna o cose del genere. Non è così, cioè le grandi squadre sono eccellenze, una contro l'altra devono sfidare il proprio limite, e quindi basta che tu faccia il 98% invece del 100, del 110 di quello che puoi fare, certo, per rischiare. Io credo che ci siano ancora i tempi per, e che forse da un certo punto di vista sia quasi salutare questo passaggio a vuoto, perché secondo me può dare maggiore forza eventualmente a Gattuso nella sua capacità di tenere tutti sulla corda. Sì, anche detto questo, poi la partita del Camp Nou, poi alla fine è una partita che dove devi, è come un esame difficilissimo, devi fare il massimo, devi andare lì con la coscienza a posto, sapere che l'hai preparato alla grande, poi può andare bene o può andare male, perché c'è anche l'avversario, la forza dell'avversario. Sì, no, ma poi un periodo enormemente strano per mille ragioni, compreso... Chi stava parlando? Vabbè, comunque periodo dicevo enormemente strano, oltre ovviamente che per mille motivi ben noti, anche per il fatto che dicevo prima ci sono giocatori che sono ex o quasi, ma in parte un po' si vede perché Milik e Allan sono ai margini, Antonio, di questo Napoli, a differenza di Calleone che è esemplare nel suo atteggiamento, esatto, nel senso della professionalità, e no, dire anche nella qualità. Bene, per dirti, per esempio Allan sì, Allan è quello che più o meno si sta riprendendo, ma soltanto Baglioni. Milik era mai dimenticato, staccato da se stesso, dalla sua figura e probabilmente anche dal Napoli, anzi sicuramente dal Napoli. Però questo è il momento, come dire, in cui uno non vale uno e le scelte sono necessarie, direi indispensabili. Come diceva prima Pier, c'è tutto il tempo per prepararsi al Camp Nou. Il calcio non è il tennis, quindi non c'è il rischio che avendo perso la concentrazione nel corso del secondo set tu possa faticare a ritrovarla nel tempo. Mancano i giorni necessari per ritrovarsi, per mettere assieme tutto, non soltanto la condizione fisica che a me sembra già buona, consistente e anche invitante, ma è quella psicologica. E stiamo qui a parlare per ore, giorni, mesi, settimane, ma Barcellona-Napoli si costruisce da sola e con il conforto dell'allenatore. Ora tocca a Gattuso chiudere la porta dello spogliatoio di Castel Volturno, se capita lasciare che persino in Pineta si senta qualcosa, ma sempre con un affetto, eh? Sì, sì, per carità, chi nega l'affetto, anche per Salvi. Il lavoro del cronista, affetti letterari, ma al di là di questo, se può essere un'ulteriore consolazione, è anche un periodo strano per tutti, non è che adesso, non è che negli altri club non ci siano situazioni di Barcellona, c'è Arthur che non vuole tornare, ecco, non vuole tornare dal Brasile, appunto, hai citato per esempio più eclatante, no? Cioè è veramente un periodo diverso da tutto quello che abbiamo vissuto prima, e ci auguriamo che sia unico, nel senso ci auguriamo di non rivivere questo incubo per le ovvie ragioni, ma dal punto di vista tecnico calcistico è veramente qualcosa di incredibile quello che stiamo vivendo. Quindi le sorprese sono dietro l'angolo, i giocatori che hanno magari la testa da un'altra parte già ci sono, quelli che non vogliono tornare già ci sono, quelli che magari giocano ma non vogliono rischiare la gamba perché hanno già un contratto da un'altra parte. È veramente un anno diverso dagli altri, e questo spiega tante cose, spiega anche, per tornare un secondo alla Juve, il fatto che la Juve, con un passo poco brillante in questa parte della stagione, ha cresciuto il suo vantaggio sulle inseguitrici, no? Eppure li abbiamo visto fare delle cose veramente non da Juve, Sassuolo, Juve è indimenticabile, perché raramente in questi 9 anni ho visto una Juve così in difficoltà contro un ottimo avversario, ma così in difficoltà mi era capitato veramente raramente. Quindi questa è una consolazione, secondo me, vale per il Napoli, sicuramente sono giocatori come Milik che in questo momento sembrano un po' distanti, vale per gli altri, ma vale anche per gli altri, poi figurati il Barcellona con Messi che sta per venire all'Inter, quindi immaginati un po' a Barcellona. Appunto. poi parliamo anche di questa, a me sembra, vabbè, mi sembra una buttata, una trovata, un bel fantacalcio, un gran bel fantacalcio. Un'ultima cosa, Antonio, quanto è dura metabolizzare lo scudetto di Sarri? A Napoli? Sì. Ah, credo che passeranno almeno i 2 anni che sono trascorsi dall'intervento. No, perché guarda, l'altro giorno parlando con Sollazzo ho avuto come questo sospetto. Sì, ho avuto come questo sospetto che non sia semplicissimo da mandare giù questo scudetto di Sarri. No, io guardo con simpatia e sono contento. Per me la storia di Sarri è una storia straordinaria, non soltanto da raccontare, ma sulla quale riflettere. Continuo a pensare che il calcio italiano non so dove abbia guardato per troppi anni, perché quando Sarri produceva un calcio delizioso, e non era questo della Juventus, nessuno se n'era accorto, ci sono voluti decenni addirittura, forse un decennio, ed è arrivato troppo tardi. Devo dire che la sua bella grande rivincita, legata ovviamente alla stagione per me irripetibile del Napoli, non si costruisce un giocattolo così bello con tanta facilità, e comunque irripetibile al Chelsea dove ha vinto l'Europa League. Sì, sono d'accordo. Grazie Antonio. Sì, però adesso a Napoli, Antonio, c'è un allenatore che adesso in maniera perfida potrei dire a Napoli ha vinto più di Sarri, la Coppa Italia, ma è al di là delle battute, perché poi sappiamo che anche i secondi posti, le prestazioni, quello che fai, i piazzamenti hanno un valore, nel calcio di oggi hanno un valore economico, hanno un valore reale, effettivo. Però io credo che a Napoli questo piccolo dolore, questo piccolo fastidio sia reso ancora minore dalla presenza di Gattuso, dal fatto che in questo momento c'è comunque un condottiero, c'è un successo molto fresco come quello della Coppa Italia, quindi insomma il mio percepito, per Antonio vive la città ovviamente tutti i giorni, è che tutto sommato la pagina del sarrismo e degli anni come nella vita si è trovato un nuovo amore, no? Si è trovato un nuovo amore che non è stato Ancelotti, non è Ancelotti adesso, cioè, fosse arrivato a ottobre o novembre nel momento di difficoltà del Napoli, fosse arrivato lo scudetto di Sarri, sicuramente avrebbe aperto i cuori. Mi sembra che in questo momento però insomma, al Napoli momento, possa pensare a se stesso al momento, per fortuna a novembre gli scudetti ancora non si assegnano, ma c'è tempo. Grazie Antonio, grazie Antonio Giordano, ciao. Adesso voglio chiarire un mistero. Conte ex Juve, Gasperini ex Juve, Pioli ex Juve, siamo sempre lì, siamo sempre. Lui c'è sempre, non molla mai, l'incarnazione proprio dello spirito dell'Atalanta, bergamasco, è così, è un bergamasco ormai adottato, è nato in Piazza Pontida ormai anche lui, è un giocatore veramente commovente per quello che sta facendo per l'Atalanta. Un giocatore ovviamente fondamentale, insomma un giocatore che fino a marzo era stato devastante sia in campionato che in Coppa, era la sua migliore stagione, come se quando mancano, non so, se manca Dybala alla Juve, Immobile alla Lazio o Lautaro, Lukaku all'Inter, è chiaro che ci dispiace, però dobbiamo fare comunque di necessità. Matteo Magri, Corriere della Sera, ciao Matteo. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao, il mistero non è quello di dove è nato Papu Gomez, che non credo sia nato a Piazza Pontida, ma è quello di Ilicic, che dice, è chiaro che è pesante nell'Atalanta come Dybala nella Juventus, o come gli esempi che ha fatto, però è praticamente sparito dalle rotazioni e il motivo non è chiarissimo. Il motivo rimane non chiarissimo. All'inizio la società aveva detto che aveva un problema di condizione, di forma, solo che evidentemente in due mesi, non lo so, la forma, la condizione, la evidentemente c'è dietro qualcos'altro, nel caso di Ilicic, insomma. Sì, anche un problema personale. Anche perché vai a leggere, cioè nel 2020 di Ilicic all'inizio è stata una cosa da pallone d'oro, Pierluigi, ti ricordo 11 partite, 14 gol prima di fermarsi, dopo il lockdown si è visto in 5 occasioni senza incidere, senza segnare. Sì, assolutamente sì, io ho commentato, ho avuto la fortuna, l'onore e veramente il privilegio di commentare Valencia-Atalanta, che è stata una di quelle partite che secondo me racchiude tutto il senso del calcio per il momento in cui è stata giocata, per quello che in quella partita Ilicic, ci sappiamo quello che ha fatto, credo sia la sua, quel gol là lo fa solo un fenomeno, sì, ma soprattutto insomma credo sia stato proprio il match of the season per lui, sì sicuramente, insomma io credo che Ilicic, allora il fatto che l'Atalanta vada così bene senza Ilicic è un'ulteriore conferma della forza di questa squadra, della profondità della rosa di questa squadra, però insomma recuperarlo appunto con tutti i misteri, i problemi, anche l'affetto della gente di Bergamo per questo ragazzo, recuperarlo sarebbe veramente importante, perché è un giocatore che fa la differenza, che può fare la differenza, che secondo me è arrivato a un livello di maturazione, venne preso se non sbaglio da Sabatini tanti anni fa a Palermo, no? Sì. dalla Slovenia, ecco, oggi è arrivato a un livello di maturazione clamoroso, e quindi che la Champions possa essere per lui la medicina migliore, insomma, per uscire da qualsiasi problema. Anche se è vero, Matteo, come ha sottolineato Gasperini, che gli altri stanno dando quel poco in più che serve per non farti poi pensare tanto a Ilicic, perché questo è vero, no? Basta guardare Malinovskyi che fa un gol a partita, basta guardare il rendimento degli altri lì davanti, come fai a dar torto a Gasperini? In effetti è vero, calcola che comunque l'Atalanta dal post lockdown, diciamo così, non ha mai perso. Sì, cioè, nel senso, l'assenza di Ilicic è ovviamente pesante, soprattutto come diceva Pierluigi, se pensiamo a quello che aveva fatto appena prima dello stop, poi a partire da Valencia, mi ricordo anche benissimo, ma non solo, anche nelle scorse stagioni aveva già regalato delle prestazioni incredibili, mi ricordo ad esempio in Europa League contro a Dortmund, quella doppietta favolosa. Detto questo, comunque sì, la squadra sembra che possa comunque reggere, ok, anche senza il talento di Ilicic. Detto questo, sarebbe meglio se il talento di Ilicic fosse a disposizione di Gasperini, questo è ovvio. Tanto detto più questo, che... secondo me l'allenatore l'ha già fatto capire, secondo me ieri, con quelle frasi dopo il match col Parma, in cui ha detto che più passano i giorni e più sarà difficile vedere Ilicic a Lisbona. Lui secondo me è già da parecchie partite che sta cercando infatti un equilibrio nuovo là davanti, pensando a un probabile a questo punto forfè dello sloveno, insomma, Malinovskyi, sì. Pasalic, Gomez, un'altra posizione, insomma sta cercando delle soluzioni. Sì, questo si vede chiaramente, ma mi sembra anche che l'Atalanta stia piuttosto bene, cioè è vero, si avvicina a quella partita lì, ma continuando a vincere, non molla mai l'osso, adesso vediamo con l'Inter. Sai cosa, che io lo seguo da un po' di anni, rispetto agli anni scorsi, ad esempio due anni fa, una partita come quella che ha giocato contro il Parma l'avrebbe persa, perché secondo me il primo tempo dell'Atalanta di ieri è stata una roba molto negativa. Io mi ha ricordato quasi la partita di Zagabria di settembre, insomma, quando non è mai riuscito a prendere il pallone e soprattutto non è mai riuscito a tirare in porta una squadra che ha fatto 98 gol in campionato, però poi a differenza degli anni scorsi ha la maturità, la pazienza, ai colpi anche dei suoi campioni che le permettono di ribaltare un match che era complicatissimo. Sì, e poi lo fai nel secondo tempo. Avesse giocato male al contrario, male il secondo tempo, magari qualche domanda in più te la fai. Grazie Matteo, alla prossima. Ciao, buona giornata. Fermiamoci ciao. Per la borsa, poi torniamo. Io per Luigi Pardo, per gli ascoltatori 800 24 00 24, numero verde. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta convocati. Non è stata la carica del presidente Andrea Agnelli, è stata la scarica di Silvio Berlusconi che ha mollato il Milan. Se no la Juventus restava sempre dietro, perché non l'ha fatto quando stava ancora il Milan di Berlusconi? Credete ancora al quinto posto? Noi ci dobbiamo credere, nel senso che noi dobbiamo fare più punti possibile. Noi purtroppo la inseguiamo da tanto tempo, abbiamo accorciato la distanza, ma quando poi devi rincorrere non dipende solo da te stesso, però noi possiamo determinare invece i nostri risultati. Quindi noi grande concentrazione soprattutto sulla partita di domani, poi vedremo cosa faranno i nostri avversari. Ma dai, su, alla prima folata di vento Ibrahimovic dà di matto, come ha già fatto in passato, e fa qualche cavolata e voi siete qui a incensarlo adesso. Mette il carattere in tutto quello che fa, va bene, ma serve altro. Al Milan di domani serve altro per andare avanti nel suo progetto. Beh, qualificare altro, continuate a mandarci WhatsApp vocali 349-238-6666, numero verde 800-24-00-24. Certamente servirebbe altro, se è vero che arriva, non so se l'hai letto da qualche parte Pierluigi sui soliti social, arriva Arnaud che poi porta Guardiola e Messi, vabbè, e poi allora se l'altro è quello va bene, altrimenti Ibra mi sembra che sia abbastanza importante in questo quadro attuale. Se poi il quadro sarà un altro e sarà dipinto da Van Gogh non è dato sapere. Ascoltatori, time 800 24 00 24, vi ricordo che abbiamo tempo poi per parlare insieme, quindi continuate a chiamare se volete fino alle 15:30. Paolo Modena, buongiorno. Buongiorno. Intanto ciao. Complimenti, siete il numero uno. Allora, io sono interista, volevo farvi questa domanda, ho dato questo intervento, per questo famosissimo gap tra Inter e Juventus che è da colmare. Secondo me quest'anno il gap è stato colmato leggermente, ma un po' per l'anno di transizione della Juve, un po' anche per demeriti della Juve dal punto di vista del mercato dell'anno scorso. A me quest'anno sembra che la Juve invece sia partita molto bene, ha preso Kulusevski che sarà un giovane ma gioca come uno di 30 anni, questo Arthur del Barcellona, e sicuramente investirà ancora su una punta. Io penso che l'Inter debba fare molto quest'anno sul mercato per almeno in proporzione mantenere questo gap, perché sennò diventa lui. Considerazione estremamente interessante, la gira per Luigi Pardo chiedendogli se ha letto cosa ha scritto Paolo Condò oggi sulla Gazzetta. Ti è capitato, Pier? No, non mi è capitato. Diceva è ora che le altre rialzino la testa, perché di percorsi di crescita anche basta. La Juventus è stata brava, ma ne parlavamo ieri, a monetizzare, moltiplicandolo per 9, la lunga transizione societaria del Milan e dell'Inter, che hanno cambiato un paio di proprietà, le prime delle quali non benissimo, e quindi la Juve è stata brava a lavorare su quello. Adesso le altre devono essere brave e magari anche coraggiose ad andare a lavorare invece su quelle che possono, su quello che può essere l'ipotesi di una fine ciclo della Juve, perché nessun ciclo eterno, nemmeno questo. Assolutamente. Allora, partendo dall'ascoltatore, su Kulusevski sono perfettamente d'accordo. Arthur, secondo me, è una mossa che, al di là della valenza economica, sappiamo, insomma, della mutua soddisfazione dei due club, è una mossa che secondo me può essere comunque utile, anche se chiaramente la qualità di Pjanic nel mezzo non sarà semplicissima. Io penso che abbiano cominciato bene il mercato, che poi quest'anno è un mercato anche strano, no? Quindi sicuramente è un mercato corto, un mercato complicato anche da leggere. C'è la variabile, secondo me, di qualche giocatore, soprattutto della vecchia guardia, che non va di più. Sì. E soprattutto c'è la variabile di una stagione che io non so dirsi sia stata più faticosa rispetto alle altre. Ad occhio ti direi di sì, e quindi potrebbe aver avuto anche dal punto di vista del dispendio sulla carriera dei giocatori un impatto superiore. Questo non è il vero punto interrogativo. Ma la domanda di fondo è se, come credo, rimarrà Sarri, non ho motivi per pensare il contrario, è se verrà concesso a Sarri la possibilità di fare un'impostazione più sarriana della squadra. E questo è il discorso di quest'anno, secondo me. È una rivoluzione a metà quella di quest'anno. Certo. Un allenatore diverso con una squadra che non è del tutto sua. Quindi leggevo invece oggi Giletti che sottolinea sempre sulla Gazzetta come Cristiano Ronaldo, con tutta la sua forza e la sua qualità, però in qualche modo sia un vincolo. Un meraviglioso vincolo, ci mancherebbe altro. Ma al di là di quelli che arriveranno, è importante anche il capitolo uscita dalla Juventus, perché fino a quando continui con il vecchio corso, con i senatori che partono da Cristiano Ronaldo e arrivano a Bonucci, a Chiellini, per lo stesso Buffon che fa il portiere di riserva, però rimane comunque nel gruppo. Fino a quando non lascia andare il passato, sarà difficile costruire qualcosa di profondamente diverso, o no? Assolutamente sì, che non è semplicissimo, anche perché il passato un po' ti serve, perché ci sono dei giocatori che sono comunque importanti, e perché in qualche modo la vecchia guardia è stata utile anche quest'anno, no? per aggrapparsi nei momenti di maggiore difficoltà. Quindi insomma è un lavoro complesso. Sono d'accordo con Condò, che non ho letto, ma adesso vado subito a recuperare, sul fatto che le altre devono muoversi, perché comunque insomma, ma io credo l'Inter lo stia facendo, il Milan con il suo punto maggiori di partenza, limiti, che è un certo. po' sì, maggiori limiti, è più indietro secondo me rispetto all'Inter, ma comunque questo tipo di mentalità la sta portando avanti. E poi ci sono le altre, insomma, leggevo dell'idea di David Silva per la Lazio, che certo. per me Lazio e Atalanta sono due squadre che l'anno prossimo devono o comunque possono partire, possono con provare. Un'idea grande, sì, in testa possono, certo. esatto, e l'idea, con quell'idea lì ci quello. Possono partire, no? perché no, ecco. Quindi, Gigi, aspetta, sentiamo anche Gigi da Varese, poi ti lascio andare a, non so se a fare il bagno o a preparare la partita. In quale La seconda che hai detto. Oggi si lavora. Non posso dire che mi dispiace, insomma. Gigi, buongiorno. Gigi? È Gigi da Varese. Linee disturbate, vediamo se riusciamo a recuperarlo per tempo. Invece quanto a Kulusevski, volevo chiederti una cosa. Tu dici vabbè, Kulusevski indiscutibile, quello che vuoi, anche secondo me, l'abbiamo visto anche ieri, giocatore nel Parma pazzesco, però continuo a pensare che prima di dire che l'uomo che può cambiare e segnare un nuovo corso della Juventus, io voglio vederlo comunque giocare a quei livelli lì e con quella pressione lì, eh. Il rapporto tra talento ed età mi sembra assolutamente virtuoso, potenziale, clamoroso, quindi secondo me è un grandissimo acquisto anche in prospettiva. Poi dalla prospettiva alla realtà ovviamente ci passa una bella distanza, e bisognerà capire se sarà in grado di realizzare i propositi che tutti immaginiamo possa raggiungere. Poi secondo me ci sono giocatori che quest'anno sono completamente mancati e non vanno sottovalutati, perché questo è un campionato vinto senza Chiellini, certo. è un campionato dove Demiral, e sappiamo che giocatore Demiral ci ha fatto vedere delle cose importanti, dove dare la scosta non c'è praticamente mai stato, e non ci quindi... sarà neanche nel finale, dopo che Sarri aveva detto questo è il giocatore barometro probabilmente di questa squadra. Forse Gigi c'è, eccomi qua, buongiorno. Eccolo qua. Ciao, abbiamo lungamente rincorso. Ambitissimo. Non ci deludere adesso però, eh. Non ci deludere, abbiamo delle aspettative, che abbiamo rincorso allora... più di Messi, vai. Posso chiedere un vostro parere su questo aspetto molto particolare della Juve? Io sono un ascoltatore un po' particolare, mi chiamano rinnegato a Napoli perché sono tifoso della Juve, ma è colpa di Tardelli, di quando era piccolo, di quando ero piccolo. Allora, la presenza di praticamente 7 giocatori mancini nella Juve, che secondo me precludono, soprattutto nella parte alta, lato destro del centrocampo, tutta una serie di soluzioni. Cioè, io non penso che la Juve abbia impostato la stagione su Khedira o su Ramsey. Tra l'altro, uno che si rompe sempre, lo sappiamo. Non ha giocato, è un altro che è un punto di domanda. Ora, io l'altra sera contro la Sampdoria nel primo tempo, un'azione di Rabiot che arriva sul lato destro e invece di andare giù in fondo a fare un cross come normalmente si fa, chiaramente per Ronaldo perché non ci sono altri attaccanti, quindi questo è un altro problema, torna indietro e si fa lo stesso gioco. Ora lui, Bernardeschi, a parte Dybala, che Dybala lo metterei anche in porta per tutto perché insomma, è un giocatore, sì. Ma tutto il resto, cioè la parte destra di centrocampo, ormai Quadrado è un terzino, cioè gioca dietro, quindi abbiamo visto, l'ha spostato un po' in avanti, è stato inguardabile, non salta più l'uomo, quindi ritorna indietro. Ma adesso tutta la parte esterna del centrocampo lato destro, come cioè, tu come, dici, come eccesso di Mancini, Juve che fate un po' i conti, cioè parte Alessandro dietro e non c'è un sostituto, ma tutto il resto, la parte Bella domanda da fare a Sarri, non so se gli è stata fatta. Dybala, Matuidi, Bernardeschi, no, questa è una chiave divertente, sulla scosta credo anche, assolutamente sì. No, è una domanda, è una sottolineatura interessante e divertente, però insomma io credo che l'aspetto dove è migliorabile la Juve è la qualità del centrocampo, quindi insomma poi l'elemento del piede va sicuramente messo in considerazione, però poi tanto il destro di Ronaldo mette tutti d'accordo, no Pier? Sì, e se noi facciamo il paragone con la Juve di Allegri che arrivò in finale nel 2015 contro il Barcellona, che ci arrivò da assoluta sfavorita, da underdog, no? Quindi, ecco, e confronti quel centrocampo con quello di oggi, scopri che era meglio quello. Questo è il vero tema ed è la vera area di miglioramento della Juve, che il centrocampo ha bisogno di giocatori di qualità, ha bisogno di giocatori che possano, quindi insomma, visto che Gigi è diventato tifoso della Juve perché per l'urlo di Munch di Tardelli, sì. Esatto. Sì. Che era un mix secondo me di qualità e di solidità nel mezzo, insomma, serve sostanza lì. Tanti dicono che insomma l'uomo ideale sarebbe Zaniolo, non mi ricordo più che lo diceva anche ieri, però insomma andare a prendere Zaniolo mi sembra un po' complicato in questo momento per la Juventus, però non si sa mai. Ciao Pier, ti ascolto stasera. In Cagliari Juventus, traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina, Tutti Convocati Radio 24, su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Tra le cose da sottolineare in rosso e da non perdere sui giornali di oggi c'è l'intervista del mio amico Flavio Vanetti al numero uno dello sport mondiale, cioè Thomas Bach, presidente del CIO. Ciao Flavio. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come hai trovato Bach? L'ho trovato con una caccia di qualche mese, nel senso che la lista è un po' lunga, bisogna mettersi in coda, sì, e trovare un buco nella sua agenda. Avevo preso una buca un mese fa perché era già tutto pronto per l'intervista, poi l'ha fatta slittare per un impegno imprevisto e ieri finalmente ci siamo riusciti. Fiducioso, al di là delle sue doti, ovviamente di abile politico, secondo te... dal linguaggio del corpo mi viene voglia di dire fiducioso per Tokyo? Ma lui credo che sinceramente lo sia, ma l'ho sentito anche molto realista, quindi anche pronto a una serie di piani B che sono veramente tanti, dall'appunto l'Olimpiade a porte chiuse, anche se non è certo un giocatore che preferisce. È inconcepibile, guarda. Inconcepibile, no, però forse... vista la montagna di soldi in gioco, potrebbe essere un'estrema razza, però non credo che sia proprio la cosa che loro cercheranno di fare nella peggiore delle ipotesi. E però, ripeto, anche realista e anche consapevole che ci sono delle cose che possono anche non essere sotto controllo. Per quanto un aspetto interessante, io non l'avrei immaginato, è stata la domanda su alla fine chi decide, e la risposta è stata: alla fine decidiamo noi del CIO e il comitato organizzatore, quindi non decide l'opinione pubblica giapponese, insomma, sì, e neanche la maldestra organizzazione mondiale della sanità, se possiamo sì, anche dire questa cosa qua. Sì, sì, no, ma comunque ti dico, più che nel calcio, stiamo vedendo il calcio a porte chiuse, poi gli stadi riapriranno a settembre, leggevo oggi Wembley a fine agosto, apertura sebbene parziale, 15-20 mila spettatori sui 90 mila di capienza, insomma si va verso la Francia, che pure è stata chiusa fin qui e poi in maniera anche contraddittoria, se vogliamo, riapre parzialmente, schiude le porte per le finali delle coppe nazionali. Insomma, siamo a un anno di distanza. Io credo che a questo punto un filo di ottimismo si possa pure spendere. Ma assolutamente sì. Io dico che prima di fare che Tokyo diventi la prima edizione dei giochi cancellata per eventi non bellici, insomma, deve veramente succedere un bel po' di cose, ecco. Non lo so come sarà la situazione del mondo tra un anno, ma io voglio sperare che sia, comunque, che la fase cruciale sia stata scollinata finalmente e superata. Poi potrebbero fare mille considerazioni anche su questa pandemia, ma non è questa la sede per farlo. Citofonare Organizzazione Mondiale della Sanità, maldestra. Esatto, che prima ci dice le cose in un modo, poi in un altro, poi guarda caso rettifica, cambia ancora, vabbè, insomma. No. Manca un po' di unitarietà nelle visioni, ecco, se non altro. No, io sono per l'immediato, guarda, ti dico la verità, abbastanza preoccupato. Poi ne parlerò tra 20 minuti con Mauro Berruto. Sono piuttosto preoccupato invece sulla ripresa a settembre, fine agosto, dei grandi sport di squadra, dalla basket alla pallavolo, perché mi sembra che lì, magari è un po' presto, magari mi preoccupo per niente, però mi sembra che lì manchi totalmente chiarezza, e sappiamo che in quegli sport, insomma, non sono il calcio, gli spettatori devono poter così occupare i palazzetti per molte ragioni, non ultime quelle di cassetta. Ma certo, ma credo che sia inevitabile arrivare a questo, perché se no allora decretiamo la morte di discipline come il basket e il volley, che in Italia campano sugli abbonamenti, sul botteghino, sui soldi che mettono i patron, spesso sono anche dei mecenate, e quindi è chiaro che se viene meno l'80% degli introiti, allora si fa prima chiuda. Non credo sia concepibile una stagione a porte chiuse o comunque con accessi limitati. So che molti team si stanno attrezzando con degli abbonamenti virtuali partite in streaming, ma non è la stessa cosa, non puoi neanche, presumo, pretendere gli stessi soldi di un abbonamento per una partita live. No, puoi contare sulla affezione dei tifosi, l'ha fatto Modena, no? Vendendo al buio praticamente gli abbonamenti, Modena volle, vendendo al buio gli abbonamenti per la prossima stagione, o se giochiamo siete tutti qua, se non potete venire, grazie per il sostegno. Sono state varie iniziative, io proprio ho parlato proprio di questo caso un po' curioso di Modena Volley e anche di Varese Basket, che nel momento forse più difficile, appunto a causa di questa pandemia, è riuscita a realizzare una squadra che è decisamente la più forte sulla carta di quelle degli ultimi anni, almeno fino a quella del 2013, che contese a Siena la possibilità di giocarsi la finale scudetto. E questi sono un po' i paradossi di questa pandemia, però questo è anche un bel segnale, vuol dire che forse magari questa emergenza ha fatto scattare anche un po' la creatività e la voglia anche di ingegnarsi per risolvere un problema, quindi non dare tutto per scontato e percorrere delle nuove strade che sembrano in alcuni casi portare anche a un discreto successo. Però non si prescinde dal discorso che facevamo prima, non si può non riaprire i palazzetti, ecco, questo è evidente. No, anche se ti ripeto, al momento nessuna ripresa, protocolli di ripresa, allenamenti, poi c'è chi ha i suoi problemi, ad esempio la Virtus Bologna con i suoi fuoriclasse serbi, sì, che non possono tornare perché ci sono le frontiere sbarrate, quindi problemi contingenti, però una chiara linea di ripresa non la vedo. Intanto ho visto società salvarsi, ne parlavo ieri per il rotto della cuffia, come Cremona, Serie A di basket, che sembrava aver dato totalmente forfè, invece tiro da tre punti societario all'ultimo secondo, domani venerdì scade il termine per iscrizione, riuscirà ad iscriversi. Approfitto delle tue profonde conoscenze anche in altri settori per chiudere, Flavio, a proposito di strade da percorrere, quella della che sta percorrendo la Ferrari, come la valuti? La valuto piuttosto tortuosa in salita, anche se ho pista in Formula 1 ci dovrebbero essere altri scenari. Purtroppo credo che sarà sotto schiaffo ancora per un bel po'. Il progetto di quest'anno può essere che sia la conseguenza, la risultante diciamo di quel famoso motore che poi non è stato più possibile utilizzare. Qui non sto entrando nel merito di un'eventuale irregolarità commessa da Ferrari o meno, ma è probabile che questa SF1000 avrebbe dovuto avere un altro tipo di propulsore, uno propulsore con delle caratteristiche. È stata concepita per un altro motore. Esatto. Chiaramente, quando poi tu hai un motore che non è più quello per il quale hai fatto il progetto, è chiaro che poi vanno al diavolo tanti altri aspetti. Adesso si tratta di capire quali sono i margini per recuperare e per tamponare la situazione. Io credo che fino al 2022, visto che c'è l'anno prossimo di fatto il congelamento della situazione, sarà molto difficile. Onestà, non riesco a capire fino a che punto le purghe interne con la parziale ristrutturazione siano state fatte per ovviare ad una situazione che mi sembra molto difficile in tempi stretti, perché lì nemmeno Harry Potter, quello vero, non il suo sosia, cioè Binotto, potrebbe fare qualcosa nell'immediato, o se siano state fatte per l'opinione pubblica per calmare un po' la furia rossa del popolo degli appassionati. Ma può essere proprio sia l'una sia l'altra cosa. Può essere che effettivamente fosse necessario rivedere un po' le cose, ma probabilmente serviva anche un messaggio così, un po' per calmare le acque. La domanda un po' cruciale, forse anche un po' cruda, è se non sia Binotto che sia magari un po' anche lui, non voglio dire in banana come si dice in gergo, ma se non altro alle prese con tanti fronti da controllare, dalla gestione politica del team, le questioni tecniche che forse magari lui avrebbe preferito non dover seguire più, tutta la parte politica che oltretutto in questo momento è anche abbastanza predominante, visto anche il fatto che la Ferrari è un po' esposta su certi fronti. E' chiaro che alla fine la giornata è di 24 ore, la testa è una, le mani due, sì. Può essere che anche lui sia un po' in sofferenza. O che ha smarrito però, in giro la bacchetta magica in qualche autodromo del mondo. Comunque, in ogni caso, credo sia realistico prepararsi appunto a una stagione di contenimento, cioè vedere, portare a casa quello che si può portare, e poi cercare di migliorare sta macchina pensandola già nell'ottica dell'anno prossimo, della prossima stagione. Sì, comunque limitare i danni mi sembra abbastanza cruciale, perché così non è sconfitta, una Caporetto sportiva quella della Ferrari. Il Gran Premio di Budapest purtroppo è stato drammatico, perché su una pista in cui il motore non era così necessario, quindi oggi dice eliminiamo quello che poteva essere un problema, la Ferrari adesso non ha magari il motorone che aveva l'anno scorso, e loro sostenevano tanto di aver anche migliorato l'aerodinamica, ma alla fine sono stati doppiati, per cui quindi evidentemente che l'aerodinamica non funziona tanto. Non funzioni quasi niente questa macchina, mi sembra non funzioni quasi niente. Vediamo a Silverstone con poca con poco ottimismo nel weekend. Grazie Flavio, ti abbraccio. Grazie a voi, ciao. A risentirci. Ciao Flavio Vanetti. Ora ci fermiamo un istante, 2 minuti e mezzo per la precisione. Poi torniamo per un'altra mezz'ora insieme, 800240024, numero verde. Torneremo su vari argomenti di mercato. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Ragazzi, la differenza tra l'Inter e le altre inseguitrici della Juve è semplice: l'Inter non vende i giocatori migliori alla Juve. Punto. Questo forse può aiutare a diminuire il gap che c'è nei confronti della Juve, perché se il tuo giocatore migliore lo vai a vendere alla Juve, tu ti indebolisci e rinforzi una tua avversaria. L'Inter alla Juve non vende. Semplice. L'Inter alla Juve non vende. Semplice. Parliamo sicuramente di un'icona, di un grande giocatore, di un desiderio che tutti hanno. Rimane un gioco, certamente. Oggi come oggi no, credo che nessuna squadra italiana sia in grado di fare un'operazione del genere, se non subentrano fattori straordinari legato al mondo degli azionisti, quindi dei padroni veri e propri. Poter pensare che oggi, in questo momento, l'Inter possa arrivare a un campione del genere. Parlavo di fantacalcio, ma al di là di tutto dico che veramente si tratta di una situazione utopistica. 3. Acquistare il prossimo anno soltanto Lionel Messi oppure 4 giocatori da 50 milioni ciascuno? Ma guarda, penso che sia improponibile, mi tengo molto stretto tutti i ragazzi, poi ripeto, a fine stagione. Quindi faremo, no, la risposta è no. Faremo le valutazioni. Non sto dando la risposta. Ma hai visto quell'immagine della TV di Suning? Ce l'hai vista anche tu? Quando l'hai visto? Quando hai visto Messi proiettato sul Duomo? Che hai pensato? Mi state raccontando qualcosa che non ho visto, quindi è più facile spostare il Duomo che portare Messi all'Inter. Ecco. Mi verrebbe da dire che insomma stiamo facendo come gli antichi che interpretavano il volo degli uccelli, qui interpretiamo il linguaggio delle magliette. Ibra resterà al Milan perché ha fatto gli spot per la nuova maglia in prima persona, invece Messi non andrà all'Inter perché quelle strisce a zig zag credo che proprio non lo aiuterebbero a diffondere il suo prodotto globale. Ma chiedo conferma a Luca Marchetti. Buongiorno Luca. Ciao Carlo, ha messo delle maglie più brutte Messi col Barcellona, secondo me. Anche quindi, ne ricordo un paio terrificanti. Esatto, quindi l'indizio maglia potrebbe non essere valido, anche perché, se non ricordo male, in quelle del Milan c'è anche Biglia che non rimane sicuro. Ibra invece è molto probabile che rimanga, nonostante i giochi sulle maglie. Quindi Billy l'hanno preso perché è un bel ragazzo e quindi ci stava bene con la maglietta. Esatto. Senti, invece c'è chi sempre a proposito di lettura dei fondi del caffè, è chiaro che quell'immagine ha fatto il giro dell'universo, dei social certo. Soprattutto, no? Messi proiettato sul Duomo da parte della TV cinese di Suning, eccetera. C'è chi legge similitudini nelle smentite del pre Cristiano Ronaldo e del pre Messi, che comunque, se poi chiariamo un punto, secondo me difficilmente arriverà, ma lascio la palla a te. No, ma si tratta di smentite, adesso bisogna, le smentite sono tutte uguali, perché potremmo trovare miliardi di smentite su situazioni analoghe. Qui l'analogia è chiaramente fra due campioni incredibili che hanno caratterizzato la nostra era che stiamo raccontando in questo ultimo decennio, e quindi si trova questa similitudine ulteriore. Io credo che bisognerebbe capire se la smentita è vera o no, e a quanto ci risulta oggi sono più propenso a credere alle parole di Marotta che alle immagini della televisione di Suning. Poi, siccome con Cristiano Ronaldo, voglio dire, pensavamo tutti che potesse essere un'operazione ai limiti della possibilità, e alla fine invece la Juventus è riuscita a prenderlo. Io quello che ha in testa non tanto l'Inter quanto Messi non lo so. Messi in questo momento è sicuramente in un periodo di rottura con il Barcellona, con Bartomeu principalmente, più che con il Barcellona. Bravissimo. Io ieri ho fatto una battuta che adesso diventa molto meno di una battuta, visto che l'ha fatta molto meglio di me Conte. È più facile che se ne vada Bartomeu che Messi, è molto più facile che se ne vada Bartomeu che Messi. Beh sì, io lo credo anch'io. Sono curioso di sentire come la pensa sul punto il mio abituale compagno di banco Giovanni Capuano. Ciao Carlo. Ciao. Ma no, io penso che sia tutto abbastanza chiaro, poi se quelli di Suning in Cina evitassero di proiettare l'immagine di Messi sul Duomo staremmo parlando del nulla, perché a me sembra che le parole di Marotta e di Conte di 3 giorni fa fossero da un certo punto di vista una pietra tombale su tutta l'ipotesi fantacalcio, fesserie, insomma tutto quello che abbiamo sentito, e in linea di massima anche abbastanza condivisibili, perché la Juventus che fa l'operazione Ronaldo nel 2018 è ancora un po' più avanti di quella che può essere l'Inter dell'estate del 2020 o anche dell'estate credo del 2021. E poi però se ci si mettono loro E insomma, diventa difficile anche immaginare che chi ne scrive e chi ne parla lo faccia, certo, in qualche modo destabilizzando l'ambiente. Certo. Quindi stia tranquillo, Conte, c'è da sorridere. Però se deve chiedere spiegazioni del perché questa voce di Messi da qui in poi circola in maniera vorticosa, citofoni a Nanchino, e non in redazione, ad esempio, alla Gazzetta dello Sport. Io oggi ho fatto una rapida rassegna stampa e devo dirti la verità, ma non mi stupisce questa cosa. Oggi la vicenda di Messi superava di gran lunga qualunque cronaca ieri della vittoria dell'Inter e del ritrovato secondo posto. Era addirittura in prima pagina sul Corriere della Sera. E quindi chiaramente, probabilmente dal punto di vista dell'esposizione, l'Inter ha un vantaggio, Suning ha un vantaggio, credo, più che l'Inter. Però è chiaro che poi rischia di essere un boomerang, perché poi Messi lo devi andare a trattare, e io francamente non capisco, ma Luca sicuramente capisce più di me, perché ad esempio se tu immagini di fare questa operazione non ti sei mosso prima della fatidica data del 31 maggio, in cui Messi con due righe poteva liberarsi gratis dal Barcellona. Ma perché magari lo hanno fatto non lo sappiamo, perché magari Messi non ha ascoltato nessuno, perché oppure perché non ci hanno pensato, ci hanno pensato dopo, o non lo so, oppure perché è una questione relativa tanto a, soprattutto in queste ultime due settimane, alla famosa casa che ha comprato il papà di Messi per ragioni fiscali in Italia, da cui si è riacceso poi un tormentone che arriva dai tempi di Moratti in poi. Messi Inter, ne stiamo parlando credo ormai da 7-8 anni, di questo feeling che c'è fra il mondo nerazzurro e Lionel Messi. Vi ricordate quando veniva a Milano per Dolce & Gabbana? Già allora era un bambino, lui molto più giovane di noi, gli chiedevamo se poteva andare all'Inter di Moratti. Quindi diciamo che questo legame c'è sempre stato, e poi non si è mai concretizzato nulla, ma è sempre stato molto latente. Da qui a tirar fuori e a fare un investimento da centinaia di milioni di euro, il passo è tutto che breve. Fino a che se ne parla, per carità, ne possiamo parlare anche 15 ore, prendere tutte le prime pagine di tutti i giornali del mondo. Non so che eco ha avuto in Spagna, questo magari Giovanni tu lo sai invece. Ma guarda, se vuoi te lo dico, ho trovato un colonino sul Mondo Deportivo. Ecco, e basta. Non l'hanno preso sul serio. Non l'hanno preso poi così sul serio. No, Mondo già, Deportivo già anche, che ha già anche incrociare comunque, no? Il mondo Barcellona con il mondo Inter è importante. Da quello che sappiamo noi, a Barcellona non sono preoccupati del fatto che Messi possa andare via. Sono preoccupati perché il Barcellona in questo momento è in una crisi politico, tecnico, sportiva senza precedenti. Non sono preoccupatissimi, tanto che ad esempio hanno riempito due pagine abbondanti spiegando che alla fine l'Inter dovrà vendere Lautaro Martinez a meno del prezzo che pensa, perché c'è la crisi del Covid, che anche questa insomma è una ricostruzione che è avanti da mesi, se vogliamo un po' surreale. Io però dico solo una cosa, essendo passato insieme a tutti voi dalla vicenda di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2018, attenzione anche a utilizzare i quotidiani spagnoli come un parametro assoluto, perché se vi ricordate per qualche giorno la notizia del possibile passaggio di Ronaldo alla Juventus era un colonnino su Marca, sui giornali spagnoli di riferimento a Madrid, era sepolta tra pagina 20 e pagina 30, salvo poi diventare nell'arco di una settimana un affare fatto. Sì, un'ultima cosa Luca, poi ti saluto, mi spieghi la questione Sanchez sempre all'Inter, qual è la situazione? Tutto incrociato, c'è un problema di costo del cartellino, c'è un problema di ingaggio, c'è il problema dell'accordo fra l'Inter e il giocatore. Tutte queste cose perché sono collegate? Perché i soldi che l'Inter potrebbe pagare di cartellino, tanto stiamo parlando non di un prolungamento del prestito, ma se l'Inter vuole Sanchez lo deve comprare. Dovendolo comprare, quindi facendo un'acquisizione a titolo definitivo, c'è un costo da pagare che potrebbe diventare la buona uscita di Sanchez, che quindi a quel punto potrebbe decidere di, fra virgolette, diminuirsi lo stipendio e magari allungare più stagioni. Per questo è tutta una trattativa piuttosto complessa in cui si parla soltanto di numeri. Un numero importante te lo do: lui da qui alla fine del suo contratto percepirebbe dal Manchester United all'ordo 55 milioni di pound. Mamma mia, quindi anche soldi. Il Manchester potrebbe avere l'intenzione, la necessità di concluderlo questo affare, e non sarebbe utilizzata al Manchester United. No, sono una montagna di soldi, cioè, infatti la cosa che mi sorprende è che l'Inter comunque sia, se vuol tenere Sanchez deve investire tantissimi quattrini su questo giocatore, segno che evidentemente ci credono, no? Ci credono, perché ha dimostrato in quest'ultimo spezzone di campionato che è tornato ad essere Nino Maravilla. L'Inter non l'ha mai avuto, l'Inter all'inizio l'aveva appena comprato, non era in forma, poi si è fatto male, poi c'è stato il lockdown, di fatto non l'ho mai avuto. Adesso sta mettendo in panchina Lautaro Martinez, che ha anche i suoi problemi legati, come dicevamo, al mercato, però sta dimostrando di essere un giocatore assolutamente devastante, decisivo. Sanchez, quando ha giocato nel Udinese, quando ha giocato al Barcellona, al Manchester United, non è che è andato a giocare in Serie C. Quindi è una situazione che l'Inter vuole prendere in mano senza penarsi troppo. Sa che se deve prendere un giocatore del genere c'è un discorso ingaggio da tenere in considerazione, vorrebbe spendere il meno possibile per il cartellino, se non una fee da riconoscere al Manchester United, che a suo tempo, che dal proprio punto di vista, se vuole risparmiare qualcosa, una mano in tasca se la deve mettere anche lei. È per forza. È un coordinamento a tre in cui tutti quanti perderanno qualcosa. Ognuno di loro vorrebbe perdere il meno possibile. Sì, sì, questo mi sembra evidente. Grazie Luca, ti abbraccio. Ciao. Giovanni, come la leggi questa vicenda Sanchez? Ma io credo che intanto tutti e tre insieme non debbano perdere tempo, perché il 5 a mezzanotte scade l'accordo, e quindi l'accordo che tiene Sanchez all'Inter, e quindi diciamo da ormai c'è una settimana di tempo per mettere insieme tutti i tasselli di questo puzzle. Io credo che Sanchez si sia dimostrato un giocatore funzionale, penso che a 15-20 milioni, se sono quelli che chiede il Manchester per trasformare il prestito in cessione, sia un giocatore tra virgolette regalato, perché ci sono attaccanti che hanno uno spessore minore dal punto di vista della tecnica, dell'esperienza e del pedigree internazionale, che costano quella cifra o anche di più. Il problema è quello che diceva prima Luca correttamente, quelli sono numeri totalmente al di fuori della realtà dell'Inter e in generale della realtà del calcio italiano, se si parla tra l'altro di un giocatore che viene a fare la seconda punta, certo, e mezzo, certo. Quindi è chiaro che su quei numeri lì l'Inter non ci può stare. Marotta è un mago del mercato e quindi ha una settimana per tirar fuori la bacchetta magica e riuscire a quadrare tutti questi conti. Io credo che Sanchez alla fine resterà all'Inter e credo che sarà un grande colpo, perché lo ha dimostrato negli ultimi due mesi, ha dimostrato che cosa significa poter avere una terza punta che di fatto può essere anche un titolare, perché certo, poi Lautaro Martinez si è messo in panchina da solo, non l'ha messo Sanchez in panchina, anche se ieri poi si è ripresa, ha fatto risultanza dicendo parlate, la verità è che lui il posto da titolare l'ha perso perché non ha avuto continuità da gennaio, febbraio in poi, però un conto è stato come prima del Covid per non avere la possibilità di alternare Sanchez, un conto post-Covid avere Sanchez, fa tutta la differenza del mondo. È chiaro. Allora fermiamoci un attimo per il traffico e poi parliamo di un'altra questione che non è esattamente di mercato giocatori, ma di mercato società, cioè le voci relative alla possibile, io credo anche qui sia abbastanza fantasia, cessione del Torino, ma anche parleremo anche di altri temi con Mauro Berruto. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Secondo me l'Inter, con tutti i soldi che ha speso, non ha fatto una gran stagione. Pensate alla stagione della Juventus, che ha fatto meno degli altri anni e ha vinto comunque lo scudetto a due giornate dalla fine. La società della Juve deve prendere una decisione: o si rinnova tutta la squadra, e io sono contentissimo di Arthur e Kulusevski, addirittura spero in Zaniolo, ma altrimenti se rimane una squadra basata più sui singoli che sul gioco, a me affascinerebbe l'idea Pirlo, il nuovo Zidane. Ma Pirlo nuovo Zidane mi sembra tantino, se si è corso qualche rischio con Sarri, e si è corso qualche rischio con Sarri e con questa squadra, credo che sarebbe quasi un salto nel buio Pirlo. Comunque continuate a mandarci WhatsApp vocali 349-238-6666. Piuttosto Giovanni, in controluce come valuti la condizione delle nostre impegnate in Coppa, soprattutto l'Inter e il Napoli che abbiamo visto ieri e la Juventus che vabbè l'abbiamo vista due giorni fa vincere lo scudetto? Beh, Napoli ieri mi sembra che abbia dimostrato di star bene, ha fatto una gran bella partita a San Siro, certamente è stata punita alla fine più dei propri demeriti dal 2-0 e comunque ha dimostrato di avere gamba, di essere credo anche mentalmente pronta, anche se poi Gattuso è molto preoccupato, so che ne avete parlato insomma nella prima parte della trasmissione e quindi lui al polso della squadra, ha sicuramente ragione lui e ha anche sicuramente gli strumenti nei prossimi 8 giorni per tenere alta o rialzare la tensione della squadra, poi partite come quella col Barcellona sono partite che si preparano anche da sole. A me l'Inter complessivamente sembra che non stia male, poi adesso credo, anche se l'ultima partita, quella di Bergamo, è uno snodo pericoloso perché l'Inter di fatto rischia di giocare la possibilità di arrivare seconda, terza o quarta a seconda del risultato che viene fuori e anche la lettura di questo campionato a livello di giudizio cambieranno un poco se tu arrivi secondo, terzo o quarto. Anche tu la pensi la pensi come me, no? Nel senso che il secondo posto non è il primo dei, non è la medaglia di legno, il primo dei perdenti, come ha detto Conte, secondo me è un risultato sportivo piuttosto importante. È molto importante e lo è per mille motivi. Io però faccio fatica a legare tutto alla partita con l'Atalanta di sabato sera, cioè tanto per capirci, se io devo misurare un effetto Conte e un effetto mercato della scorsa estate sulla stagione dell'Inter, preferisco misurare la quantità di punti conquistati. L'Inter anche dovesse perdere a Bergamo chiude a 79 è in maniera considerevole più di 68 che sono i punti fatti l'anno scorso, poi se in un campionato alle spalle della Juventus ci sono 3 squadre che viaggiano a ritmo di record assoluto nel caso dell'Atalanta o di record nell'era moderna contemporanea come Inter e Lazio, ti può capitare che tu con 79 punti invece di arrivare secondo arrivi quarto. Però detto questo, siccome Conte è consapevole del rischio che c'è dentro quella partita, io credo che difficilmente potrà far riposare più di tanto i suoi, e mercoledì l'Inter va a fare la partita col Getafe che è uno spareggio, quindi a me sembra che l'Inter stia bene ma sicuramente non ha il modo di preparare in maniera ottimale la partita con il Getafe. E le altre, io sono preoccupato per la Juventus, ma ne abbiamo parlato, stiamo dando troppo per scontato l'idea che possa passare oltre la sfida con il Lione, mi sembra che l'Atalanta stia flettendo ed può anche essere normale e fisiologico. Certamente il PSG non sta bene e rivedremo venerdì sera, rivedremo il Paris Saint-Germain nell'altra finale, che poi è la seconda partita ufficiale che porta alla Final Eight di Lisbona. E sulla Roma io ho qualche perplessità in più. Di pochi minuti fa c'è questa notizia per cui c'è un giocatore del Siviglia positivo al Covid, al coronavirus, non si sa il nome, però è chiaro insomma che quella della pandemia potrà essere anche un tema nelle prossime 2-3 settimane, perché si vanno ad affrontare squadre che vengono da realtà in cui il virus è probabilmente più presente che da noi in questo momento. Sì, sicuro è così, ma c'è anche da considerare quell'altro fatto cui prima accennavamo, no? Sono comunque squadre che sono a metà strada tra quello che è e quello che è stato, e mi riferisco soprattutto alla Juventus e quello che verrà, no? Perché molti giocatori in uscita. Il Barcellona, è vero, ne parlavamo prima, gli stessi problemi, perché c'è Arthur che è in Brasile, dice no, io non torno perché tanto ormai mi avete venduto. Piani sappiamo già del Barcellona, non so quanto questo possa influire sullo sviluppo dei tornei europei, perché sono squadre in parte già smontate. Giovanni, parliamoci chiaro. Guarda, il Barcellona, leggevo oggi su Mundo Deportivo, se si giocasse domani mattina ha 14 giocatori a disposizione, di cui 2 portieri. Poi può anche essere che qualcosina da qui alla sfida con il Napoli venga recuperato, ma certamente ci saranno delle assenze importanti. Il caso Arthur è clamoroso da questo punto di vista e, se vogliamo, anche inaccettabile, anche per la particolarità di quest'estate e per la particolarità del patto che ci deve essere tra club, giocatori, insomma dentro tutto il sistema, perché questa stagione possa arrivare in fondo. Quindi è scarsamente accettabile che un giocatore resti in Brasile chiedendo di chiudere prima il suo contratto, se gli accordi sono differenti, però è una situazione che andrà monitorata giorno per giorno e mai come questa volta veramente bisognerà farlo giorno per giorno. Lo abbiamo capito anche in questo finale di campionato, ci sono delle differenze di rendimento tra una partita e l'altra, quindi fra 72 ore prima e 72 72 ore dopo che possono essere importanti, e quindi oggi è difficile dare una lettura. In generale io dico che la Juventus non sta benissimo, che l'Atalanta mi pare che stia meglio del Paris Saint Germain, mi sembra che Inter e Napoli stiano bene e il Barcellona di sicuro bene non sta. Poi ci sono i valori tecnici, è tutto da dimostrare che questo serva ad esempio e sia sufficiente al Napoli per ribaltare il fatto che il Barcellona è una squadra superiore. Sì, ne accenniamo noi, aspettavamo Mauro Berruto ma abbiamo qualche problema nel trovarlo, alla situazione del Torino che è un'altra questione di questi giorni. Chiaro che dopo un anno orribile possono uscire anche voci di possibile cessione societaria del Torino. Cairo ha smentito in tutti i modi possibili. Ho delle perplessità sulla presunta cordata che potrebbe rilevare la società granata, ma le perplessità contano zero. Non penso ci siano le condizioni per un cambio di società del Torino. Questa voce come la leggi? Ma no, guarda, io dico solo che la cordata che pensa di fare un'offerta a Urbano Cairo oggi non si è presentata bene, perché se tu convochi una conferenza stampa, ci mandi gli advisor che non fanno nomi, non fanno cifre, non danno neanche una roadmap di quelli che sono i movimenti per presentare ufficialmente al legittimo proprietario del Torino questa offerta, mi pare tutto un po' fumoso, un po' basato su un atto di buona volontà e poco più. E questo è quello che è successo questa mattina e che certamente non depone a favore di questa chiamiamola cordata che ha intenzione di presentarsi. Dopodiché Urbano Cairo, quando si tratta di questioni di affari, è un osso duro, non lo conosce solo il mondo del calcio. Tu hai il numero di Urbano Cairo, vai a vedere il profilo, lo stato che ha messo su WhatsApp, c'è quella sua foto che circolava ieri in rete, messa da alcuni tifosi, sì, vestito da Sheiko, sì. Con su, ecco, l'uomo che comprerà il Torino, quindi significa che insomma, ho come l'impressione che anche lui l'abbia presa abbastanza sul ridere e sullo scherzo. Poi vediamo che cosa succede nei prossimi giorni. Io volevo fare un'ultima considerazione con te, lanciando Pioli che parlava del mercato, ma mi hanno detto di non lanciare Pioli. Vi faccio la radiocronaca diretta di questo momento conclusivo del programma. Rimaniamo quindi alle considerazioni. Milan che sta trattando rinnovi non banali, Ibrahimovic, Donnarumma, ma anche Çalhanoğlu, che si è dimostrato un giocatore importante. Prima un ascoltatore ha mandato un WhatsApp in cui dice: ma il Milan del futuro ha bisogno di altro, non di Ibrahimovic. Io dicevo che un conto è un quadro di Van Gogh, un conto è il quadro attuale del Milan. Questo quadro attuale del Milan di Ibrahimovic ha bisogno. Sì, ha bisogno, poi andrà anche un attimo circostanziato che ruolo deve avere Ibrahimovic l'anno prossimo nel Milan, perché io ad esempio credo che Ibrahimovic, che è servito tantissimo in questi mesi al Milan anche come apriscatole per chiarire alcune situazioni, oltre che dal punto di vista carismatico dentro lo spogliatoio, non sia ad esempio un giocatore da 6 milioni di euro, che è l'ingaggio che chiede, perché in una qualunque rosa un giocatore da 6 milioni di euro è un giocatore che in campo è determinante in senso assoluto, e Ibrahimovic in senso assoluto non lo è, può essere nel Milan Donnarumma per intenderci. E poi a me alcune esagerazioni di Ibrahimovic nelle ultime settimane non sono piaciute, compreso il video con l'elicottero mentre atterra a Milanello. Ecco, quindi io credo che se Ibra si mette tranquillo ed esercita questa sua volontà di fare ancora un anno con il Milan e mettersi al servizio di Pioli come ha fatto in questi mesi, è un grandissimo affare per il Milan, e il Milan fa benissimo a tenerlo. Se Ibrahimovic pensa di essere il padrone del Milan, allora può esserci qualche problema, perché comunque un club, una squadra funzionano se le gerarchie sono chiare, e al Milan troppo spesso negli ultimi mesi, negli ultimi anni, questo non è accaduto, e sarebbe un peccato che ricapitasse, anche se per colpa di un meraviglioso calciatore come Ibrahimovic, che ha però un ego sproporzionato. Chiaro. Insomma, non è detto che quello che dà in campo possa pareggiare quello che toglie con questi suoi comportamenti. Ciao Giovanni, grazie, ci sentiamo venerdì, e tutti convocati weekend domenica, naturalmente 17-19. Grazie. Ciao, grazie. Carlo. Ciao Giovanni, grazie a Claudia Schiattone, a Pietro Lacorte, Gianmarco Ferronati in regia, tutti convocati domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.